Il problema è, se volete, è molto semplice, perché si parla tanto di qualità dell'aria, di qualità della vita, si parla anche tanto del passante, di come questo possa riuscire a risolvere i problemi di inquinamento della città di Bologna, poi ci dimentichiamo di fatto che viviamo in un contesto, soprattutto quello della noce, di un contesto industriale che invece eroga, proprio senza che quasi nessuno se ne accorga, inquinamento che si riversa poi sulla città. Non dobbiamo dimenticare che qualsiasi azione anti-inquinamento che uno possa attivare, comunque esiste il vento. Noi siamo all'interno di una zona dove c'è un sito industriale importante, è un sito industriale che da tempo non viene monitorato dall'ARPA e purtroppo tutte le volte che accendono i motori e producono, sia sulla zona circostante che in tutte le zone prossime, purtroppo probabilmente, almeno dalle vecchie rilevazioni che sono state fatte, lo conferma anche il sedime che noi troviamo sulla strada nelle nostre case, che l'inquinamento ci sia. Tra l'altro non dobbiamo dimenticare che questa stessa zona, oltre che bersagliata dalla produzione del bitume, si ritrova con tutti i gas di scarico lasciati dagli aerei. Allora noi cittadini ci chiediamo che cosa il Comune vuole fare in questa zona, perché in altre sta sponsorizzando i tram come sistema di anti-inquinamento, mentre noi siamo lasciati totalmente non considerati in tutte queste situazioni di, chiamiamo, anti-inquinamento, per non dire tutti gli altri problemi che sta vivendo la zona, di cui abbattimento alberi e zone che sono il polmone, ripeto, di Bologna, per la solita speculazione del mattone. Sì, fa riferimento, immagino, alla zona Bertalia Lazzaretto. Tornando invece appunto alla questione della noce, lei prima citava il monitoraggio che manca da tempo, la stessa presidente del quartiere Navile, Federica Mazzoni, ha detto che non c'è dal 2023, quindi insomma sono almeno 2 anni che non avete monitoraggio sulla qualità dell'aria. Sì, non abbiamo il monitoraggio, ci dispiace, perché secondo noi questo monitoraggio dovrebbe essere più puntuale. Pensare che non venga fatto da 2 anni è inaccettabile. Noi riteniamo, così come il Comune di Bologna ha attivato un osservatorio costante sugli incidenti stradali per il limite dei 30 km orari e soprattutto sull'emissione del PM10, che questo monitoraggio deve essere reso disponibile con delle centraline proprio sul sito, con un'osservazione quotidiana, perché se l'ARPA o chi altri, il Comune, continua a fare questi monitoraggi, ma questi monitoraggi sono una media dei valori, noi vogliamo conoscere costantemente se andiamo oltre la soglia. Avete avuto sensazione che negli ultimi tempi siano aumentate queste emissioni, questi problemi? Guardi, la facciamo semplice, l'essere umano è dotato di sensi, noi sentiamo degli odori acri che vanno oltre la normale percezione, cioè il fatto che la mattina ci sia una situazione di colpo di tosse e che gli stessi cittadini sentano odori strani, credo che questo sia determinante per attivare immediatamente il monitoraggio, quindi non è necessario una lente di ingrandimento o un microscopio per capire che c'è l'inquinamento e che ci sono delle polveri che stanno ricadendo all'interno delle nostre case, ma è evidente che siamo in una situazione di un quartiere la cui presenza di anziani è alta e noi sappiamo che dove ci sono gli anziani, soprattutto i grandi anziani oltre 75 anni, ci possono essere delle situazioni di fragilità. La fragilità naturalmente è legata a quello che in medicina si chiama asse cuore-polmoni. Dove si respira male, il cuore ha delle difficoltà nella circolazione. Sì, quindi è un problema di salute, insomma. È un grave problema di salute, per quello che noi ribadiamo che non avere un monitoraggio o che qualcuno di cui la nostra Presidente non si è fatta parte attiva nel monitoraggio è una situazione sgarbata e assolutamente sgradevole rispetto ai cittadini che sono anche i contribuenti. costantemente, la radio è determinante nei rapporti e nelle relazioni e soprattutto per fare vedere quali sono le criticità di questo piccolo e povero qua.